febbre, non si lamenta, bambino genio, qualcosa inventa. Noi l'ameremo finché cadrà, perciò Dio voglia, ci piacerà, ci piacerà, ci piacerà, ci piacerà, ci piacerà, ci piacerà, ci piacerà. Cambiare stile, falciando teste, cambiare amore, cambiare veste, tradire tutti per non star solo, qualsiasi cosa, se piacerà, se piacerà, se piacerà, se piacerà, se piacerà, se piacerà, se piacerà, se piacerà, ti piacerà, ti piacerà, ti piacerà, ti piacerà, se piacerà, ti piacerà. Ricordo ancora come eri bella, come era bello, come ero anch'io, mediocre in salvo di tutto il mondo. Ovunque siate, ed ovvi assolvo.